questa era Funky Football, eseguita dagli York Wilburns Psychedelic Six, stampata su etichetta True Soul, una sottoetichetta della Underground BMI, brano scritto, arrangiato e prodotto da York Wilburn. Direi di proseguire sempre su questa ondata funk, la puntata è iniziata così, e ci spostiamo da, da questo sestetto funk ai The Leaders con un brano del 1971. Il brano si intitola It's a Rat Race. Passiamo da uno strumentale ad un altro strumentale. Brano stampato su etichetta Superstar, quindi vi propongo questo brano su True Soul Recording Studio del 1971. Loro sono i The Leaders, ci ascoltiamo It's a Rat Race. questo bellissimo funk dei primissimi anni 70, era dei The Leaders con It's a Rat Race. Cambiamo completamente registro, ci spostiamo con i ragazzi di Dalton, i Dalton Boys. Dalton Boys, definiti e conosciuti principalmente come una folk band bianca, ma il loro unico lavoro con la Motown ha lasciato decisamente il segno. Un bellissimo disco del 1965, un 7 pollici, in cui nel lato A abbiamo I've Been Cheated ed nel lato B Take My Hand. Io vi proporrò proprio Take My Hand. Tra l'altro nel lato A la band di sostegno erano i Funk Brothers, la band della Motown principale, che ha accompagnato tantissime registrazioni per questa etichetta. Ci andiamo ad ascoltare questo brano in cui anche l'influenza del garage e dei Beatles è molto molto importante. Ci ascoltiamo appunto Take My Hand dei Dalton Boys, definiti anche coloro che eseguivano il soul dagli occhi azzurri. The Dalton Boys, Take My Hand. Dalton Boys con Take My Hand. Dai Dalton Boys ci spostiamo a Bobby Hebb, nome d'arte di Robert Von Hebb, nato a Nashville nel 1938, un cantautore statunitense che viene considerato fondamentalmente una meteora, in quanto noto per aver inciso un singolo di grandissimo successo come Sunny nel 1966. Formatosi appunto a Nashville, Nel 66 compose questo brano strafamoso, ma sul lato B di Sunny c'era anche questo brano che si intitola Love, Love, Love, Love per tre volte. Quindi ve lo propongo su questa stampa UK del 1972, stampa Philips, questo brano prodotto da Ross Aranzetti. Lui è Bobby Hebb, il brano è Love. Love e ancora love. Love and the smile you give me that makes my day seem brighter. Love is your arms around me, makes my troubles lighter. When I hold your hand so tightly, I feel that I'm stronger. I feel so much about you. I just can't wait no longer. For the wonderful touch of your lips, the wonderful thought of desire, of the sweet nights and kisses, setting myself on fire. Baby, love is a dream come true, love is a fire. Love knows no limits, baby. In studio, questa è Soul Time e state ascoltando Radio Wombat. Ci siamo appena ascoltati Bobby Hebb con un grandissimo Flow Fillers per quanto riguarda il Northern Soul. Siccome Soul Time è una trasmissione che si occupa ovviamente di musica soul a 360 gradi, ma con un occhio di riguardo al Northern Soul, quindi direi di andarci a ascoltare un altro grandissimo Floor Fillers Northern e vi faccio ascoltare questo brano dei The Prophets del 1968 su etichetta Smash, dischetto 7 pollici, sul quale troviamo I Got The Fever sul lato A e sul lato B Soul Control. Due cenni storici sui The Prophet, che erano una band americana di rock melodico, principalmente di rock melodico, originaria del New Jersey negli Stati Uniti, appunto. Vi faccio ascoltare questo gran brano dei The Prophets che si intitola I Got the Fever. I love you, I love you, I love you, yes I do. I love you, I love you, I love you. side. Where there used to be loneliness, now there's a love I can't hide. Baby, you know I'm thankful to have you by my side. Feel a spark you started in my soul. I got the feel. It's burning out of control. I got the feel. Prophet con I Got the Fever, brano questo scritto da Roy Smith e Tommy Witcher e prodotto da gli stessi Roy Smith e Tommy Witcher. Il prossimo brano invece è di Caroline Crawford, nata nel 1949, una cantante e attrice americana di rhythm and blues e disco, che ha inciso per la Motown Records nei primi anni 60 e per altre etichette più avanti poi nel proseguo della sua carriera. Caroline Crawford nel 1963, all'età di circa 13 anni, vinse un concorso per talenti tenuto dalla stazione radio di Detroit, WCHB, il cui premio era proprio un contratto con la Motown Records. Direi niente male per una tredicenne vincere un contratto per la Motown all'epoca. Per questa etichetta ha inciso tre singoli di successo, come Forget About Me, My Smile Is Just a Frown, scritto tra l'altro da Smokey Robinson. Poi dopo un po', poco all'inizio del 1964, incise anche When Someone's To You. Ma questo disco negli Stati Uniti non riscosse grande successo e quindi il suo contratto con la Motown non fu rinnovato, anche se poi il disco divenne un must assoluto per i fan del Northern Soul. Quindi di Caroline Crawford vi propongo questo brano che si intitola Keep Stepping, tra parentesi, Never Look Back. Caroline Crawford, eccola qui. Ooh. Caroline Crawford con Keep Stepping, Never Look Back. Proseguiamo con una altra voce femminile e passiamo a Janet Harper. Passiamo da un brano degli inizi della prima metà degli anni 60 e ci spostiamo un pochino più là negli anni 70, nella precisione con un brano del 1977. Questo brano è un bootleg, una release non ufficiale su etichetta B Records, ed è un altro brano di grandezza assoluta, cantato appunto da Janet Harper, arrangiato da Joe Renzetti e prodotto da Dave Happel, brano conosciutissimo nella scena Norden. Ci ascoltiamo Pick Me Up, Put Me In Your Pocket, 1977, Janet Harper. Pick me up and put me in your pocket and carry me around with you. Ooh, pick me up and put me in your pocket and I would be so good to you. All alone and independent, I was happy and contented, being free and being loved by no one. You knew that I just pretended, kissed me and my heart surrendered. Now only without you life is no fun. Ooh, pick me up and put me in your pocket and carry me around with you. And put me in your pocket and I will be so good to you. I guess that I was always afraid to love until you showed me I was made for love. Ooh. Now I understand completely, I was born to love you deeply and my lips around with you. Ooh, pick me up and put me in your pocket and I would be so good to you. Pick me up and put me in your pocket and carry me around with you. Janet Harper con Pick Me Up, Put Me In Your Pocket. Da Janet Harper passiamo a Chubby Checker, che è un cantante statunitense che ha iniziato la sua carriera come cantante di rock and roll, ma famosissimo ai più per aver inventato un vero e proprio genere di rock and roll nuovo di zecca, come il twist. E il brano stesso che ha dato il nome al genere, appunto, si intitolava The Twist e gli ha dato subito una grandissima notorietà. Io di Chubby Checker questa sera qui su Soul Time su Radio Wombat mi faccio ascoltare un brano per il quale sono in fissa da un paio di settimane. È un brano inciso su etichetta Cameo Parkway del 1965. Sul lato B troviamo Do The Freddy, mentre quello che vi propongo io si intitola At The Discotheque. Chubby Checker At The Discotheque qui su Soul Time. Get Chubby Checker con At the Discotheque. Il prossimo brano invece è di Bunny Sigler. Ci stiamo accingendo alla conclusione della puntata. Abbiamo a disposizione più o meno il tempo per tre brani. Quindi dicevamo, abbiamo Bunny Sigler, Walter Bunny Sigler, nato nel 1941 e scomparso recentemente nel 2017, il 6 ottobre di quest'anno, ed è stato un cantante, cantautore, polistrumentista e produttore di dischi R&B e soul, ed ha lavorato a lungo con il team di Kenny Gamble e Leon Huff, ed è stato determinante per la creazione del Philly Sound nei primi anni 70. Questa sera di Bunny Sigler abbiamo il brano Girl Don't Make Me Wait del 1966, per la precisione, stampato nel dicembre del 1966 per l'etichetta Parkway, è arrangiato anche questo da Joe Renzetti. Abbiamo ascoltato già 3-4 brani arrangiati e prodotti da Joe Renzetti. Quindi vi propongo Girl Don't Make Me Wait, lui è Bunny Sigler, qui siete su Radio Wombat con Soul Time. Don't make lui era Bunny Sigler e il brano era Girl Don't Make Me Wait. Il prossimo gruppo è un gruppo totale, assoluto per quanto riguarda la black music e il soul in particolare. È un gruppo vocale statunitense fondato nel 1953 e tuttora in attività, con pochissimi cambi rispetto alla formazione originale, cosa molto molto rara per quanto riguarda gruppi in attività da decenni. I The Dells, appunto, sono stati fondati nel 1953. Durante la loro carriera hanno affrontato generi come il rhythm and blues, il soul, il doo-wop, e hanno lavorato per diverse etichette molto molto importanti come la VJ Records, la Chess, la Mercury e la 20th Century Fox. Gruppo fondato nell'Illinois, ad Harvey, un sobborgo di Chicago. Poi nel 1960 la loro carriera ebbe una grandissima impennata, in quanto furono ingaggiati dalla grandissima Dinah Washington, sia come gruppo di apertura per i suoi spettacoli durante la sua tournée, sia proprio come coristi della sua stessa orchestra. I Dells, appunto, hanno attraversato i decenni della musica, della black music, hanno attraversato veramente i decenni senza assolutamente arrugginirsi. Dei The Dells vi propongo questo brano del maggio del 1968 su etichetta Chess, la Chess Records famosissima. Ci ascoltiamo Wear It On Your Face. Loro sono i The Dells. Got to go somewhere. This love got to go. The Dells con Wear It On Our Face. Quindi per l'ultimo brano passiamo dai The Dells, da dei giganti assoluti della musica statunitense, ad un altro gigante come Don Covey, nato Donald James Randolph nel 1936, noto appunto con il nome d'arte di Don Covey, un grandissimo cantante di rock and roll, soul e R&B statunitense. Cantante e compositore attivo tra gli anni 50 e 70. Le sue registrazioni di maggior successo, così possiamo dire, includono Mercy Mercy del 1964, See So del 65 e It's Better Have and Do Not Need del 74, che è quella che vi proporrò come chiusura di questa puntata. Don Covey ha scritto anche Pony Time, che è stata al numero uno negli Stati Uniti, brano scritto e per Chubby Checker, che lo ha poi eseguito, e la grandissima Chain of Fools per Aretha Franklin. Quindi possiamo dire che la carriera di Mr. Covey ha attraversato praticamente tutta la musica rhythm and blues statunitense, dal doo-wop passando per il soul fino ad arrivare al funk, lavorando anche lui per grandissime etichette come la Pilgrim Records, l'Atlantics, la Columbia, la Newman Records e tante tantissime altre. Quindi, come vi dicevo, questa sera in chiusura di puntata di Don Covey ci andremo ad ascoltare questo brano su etichetta Mercury del 1974, che si intitola It's Better to Have and Don't Need. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento come sempre a mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat. Vi ricordo che potrete ascoltare il podcast di questa puntata sul sito di Radio Wombat, radiowombat.noblogs.org, e anche le repliche il venerdì alle 10 di mattina e il sabato alle ore 21. Noi ci riascoltiamo, ci risentiamo mercoledì prossimo alle 19. Vi lascio con Don Covey, It's Better to Have and Don't Need. Questa è Soul Time, qui siete su Radio Wombat. No more satisfaction, girl. You know you don't give me no more inspiration. Listen to me, Lord have mercy. You know I lost that love and feeling, but you don't see me packing up my clothes, oh, and leaving. Ooh. Girl, you caused me so much pain and sorrow. Well, listen, having nobody, mama, it's so much harder. Be no, yeah, separating. It's better to have and don't need, and need and don't have. It's better to have and don't need, and need and don't have. just can't feel.